Due sole parole su quello che mi è avvenuto ieri. Ieri mi è stato impedito l'accesso all'Università Statale di Milano, dovevo andare a un dibattito sull'euro. Ho trovato all'ingresso in via del Conservatorio a Milano cordoni di giovani studenti che mi aspettavano, mi hanno apostrofato dandomi del fascista, del padrone, del buffone, del figlio di papà, e mi hanno tirato prima dell'acqua, poi delle uova, poi dei pomodori. Ho provato a discutere con loro, ma non erano intenzionati, non sapevano minimamente quale fosse la storia della mia vita, che non fossi figlio di papà, eccetera eccetera. E la polizia era ai quattro crocicchi della statale, ha visto, dopodiché un funzionario e una funzionaria si sono avvicinati, mi hanno pregato di desistere, cosa che ho fatto, non ho voluto commentare, non commento. Mi dispiace molto, mi dispiace per gli studenti, sono liberi evidentemente di fare quello che vogliono, di decidere chi entra e chi non entra. Mi dispiace per la polizia, non condivido assolutamente questo modo di fare. Mi dispiace dover parlare di me in questi termini, e sicuramente ho molto da riflettere. Mi auguro che in qualche misura trovi il modo per farlo anche chi insegna all'università. Non c'è alcun meccanismo diretto di responsabilità, e ci ho sorriso amaramente sopra. Mi dispiace, perché molti penseranno esattamente che se è accaduto me lo merito, perché conosco i meccanismi di questo paese, dell'informazione, conosco i meccanismi per cui tanti anni fa oramai all'università c'era chi praticava con diversi metodi, quindi non voglio accomunare queste cose, e so come questo sia esattamente il punto, cioè fissare con un gesto di disprezzo un giudizio collettivo. I giudizi collettivi si formano così, ed è questo il mio più grande motivo di amarezza, e fine, punto, non ne parliamo più.